Sì, allora. No, giusto, non sono abituato ancora alla modulazione. Brutta, questa. No, non è che è brutta, è diversa timbrica, tutto lì. E ci metterò poco a ripiattare di nuovo tutto, mi sono un po' le spalle. Quello che succede, succede, se la bile in culo. Ah, no, ma tu temi che lui possa chiamare qualcuno? Chi chiama? Cosa gli dice? Che ti sente attraverso la parete? Lui per chiamare qualcuno deve disturbare, che ne so, radio, TV, così. Ma cosa ti dice? Mi sta facendo interferenza dalla parete. E magari chiama i carabinieri. Sì, cosa fa? Si chiama carabinieri e dici ciao, il signore si lamenta che io parlo sottovoce e mi sento attraverso la parete alle 9 di sera. E quelli gli dicono, e lei perché se ne va a letto alle 9 di sera? E tanto la volta che gli ho chiamato mi ha fatto ragionare, dice, non è che siccome stava bussando, stava terrorizzando i bambini. Ho fatto le fonti, gli ho detto, la cosa è che a me mi ha detto, ma non è che sia lei che si è disturbato. Vabbè, loro possono dire quello che vogliono. Quello che conta sono i fatti. Se tu fossi con la discoteca lì, con lo stereo, ma i muri lì sono fatti così. Se uno parla si sente. D'altronde già anche tu vieni disturbato da russare tipo maiale, quindi non deve dire niente. Anche qua allora, se disturbo qualcuno, perché io magari praticamente qua sotto hanno fatto una, è molto aperto, hanno levato muri divisori, hanno fatto una stanzione unica, è un timpano, probabile che mi sentano anche parlare adesso sotto, come io sento loro, ma cosa ci posso fare? Ti ordini, Marco, un registratore ne hai? Allora, se vuoi lo prendo, però già lo devi sentire in verticale, perché la radio distorce. No, no, lo voglio sentire in radio, voglio sapere, io comunque oggi ho parlato con Tempio. Con Tempio? Cazzo, e chi c'era da Tempio? C'era Gianfranco, non lo ricordo, non mi ricordo, Nico Nero, una cosa del genere. Comunque era un ex camionista che si è fatto il baracchino dal camion perché ha finito di lavorare e se l'ha messo in macchina, capito? E lui era in macchina, Santiago 95, però non sai da dove. Da Usilo. Ah, da Usilo l'hai contattato. Usilo è un bel posto. Sta all'altura di Usilo. Arrivava molto bene, anche lui arrivava molto bene a me. Ma sempre in AM? Sì, sì, in AM. Eia, perché poi se fai collegamenti di SSB non ne parliamo, è un bisù. Alle 5 in AM, ma lui aveva un'ora 48, capito? Il solito della barra mobile. Cosa? Ho detto il solito della barra mobile. KK. Sì, sì, lui aveva l'ala 48 modificato perché era un camionista e ce l'aveva modificato. Arrivava bene, dico la verità. Perché anche io gli arrivavo una schioppettata, è proprio fortissimo, come se fossi seduto a fianco a lui. Aspetta che prendo il registratore già. Eia, dalla macchina, con l'antennino piccolo pure. Ah, col piccolo, buono, buono. Caspita. Aiuto, registra. Cava. Io ero tutta la sera fuori, sono tornato mezz'oretta fa, ok. Perché basta la lancetta? Ah, sono attaccato, aspetta. E anche io ero alla piazzetta, c'era la festa del carnevale. eravamo io e Luca, che aveva trovato l'amico suo, e ci siamo guardati Manuela che cantava, c'era mia figlia che cantava, e poi c'era la festa del carnevale per i disabili. Eia, adesso sono con 3 watt e mezzo, dai. No, aspetta. No, 4 watt, sì. Allora, adesso lo preparo. Però c'è una discordanza. Mentre l'altra volta ho registrato col K, dalla sottopalante esterna del K, adesso sto registrando dal baracchino. Cosa vi consigli di fare? A parità, lo metto come l'altra volta? E mettilo, voglio solo sentire come sta facendo il radio, perché chi mi dice che c'è benissimo, chi mi dice che c'è male, voglio appurarlo io, siccome non c'è altro apparato qua per appurarlo, quindi non posso vederlo, capito? Eia, dammi pochi secondi che cambio l'antenna. Tappa. Allora, aspetta, facciamo un passaggio qui, così che come volume normale. Via, guarda. Adesso la piazzetta era 11, era una festa del carnevale dove cantava mia figlia. Ci siamo andati con Luca, diciamo, abbiamo mangiato le frittelle, eccetera, eccetera. Ma quando ti dico vai, tu vai. Ma allora. K, prove tecniche di trasmissione di diversa distanza, vediamo un po' così come va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, stella, boh, vai. Allora, il problema è che col K distorsi, guarda, te le farò sentire in verticale quando ci vediamo, così hai un'idea. Vai. K, prove tecniche di trasmissione di diversa distanza, vediamo un po' così come va. Aspetta che abbasso, te lo faccio risentire, metto il volume a 15. Vai. K, prove tecniche di trasmissione di diversa distanza, vediamo un po' così come va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, stella, oh vai. Non va bene, cavolo, va benissimo. Però la qualità del magnum è superlativa. Sì, ma non c'ha fischi, non c'è nulla, pulita la radio. Poi dopo che l'ho fatto è uscito un bombo. Allora, adesso mi ascolto un attimo l'altra, quella precedente, voglio vedere se è la peggiore. Questa è 1, 2, questa è 3, questa è 4, questa è 5, questa è 6, questa è 7, questa è 8, questa è 9 e questa è 10. Ecco, questa era la vecchia. È più forte adesso. Conta che io sto a una distanza dal mic approssimativa, Adesso me ne riascolto, aspetta che abbasso il volume qua. Cava, cava. Mi fisso lì. Eccomi qua, allora, ascoltandole erano simili, solo quando tu mettevi il tono basso, tutto a zero, era più bru bru bru, non so come dire, troppo basso il tono, e vibrava appena, poi già come mettevi a 2, era già come oggi quasi. Ho notato una cosa già di strano, quando io a suo tempo ho messo l'MB5 su vari baracchini, variava molto dal tono cupo al tono a cupo, c'era un'escursione notevolissima, il tono a cupo diventava acutissimo, proprio pungente, invece da te sembra molto uguale, che tu la metti da 1 a 10 il tono è sempre uguale o quasi sempre, solo quando è cupo era appena distorto, sentivo un po' di, come dire, muffled. Perché questa qui non è la capsula originale, capito? È una capsula telefonica. Ma va meglio anche. E voglio, l'altra è cupa come capsula. o meglio dall'altra, è più forte, hai gonfiato. Aspetta, una prova che avevo fatto. Aspetta, un giorno per provare il registratore avevo fatto una registrazione di 5 secondi, senti. Chi è? Tu? Tu eri. Ma io ero. Col magno, credo. O dalla macchina, boh. Non c'è il bip. Ma fammelo risentire, anche il magno c'è il bip, non è possibile. Aspetta, allora. 33, devo abbassare un po' il volume. Oppure lo metto più lontano, aspetta, fermo. Questo. Dimmi. Sono con questo qua. Ah, con questo era. Ho capito, allora era per regolare la distanza dall'altoparlante. Se lo metti troppo vicino all'altoparlante potrebbe saturare, anche se questo non è la cassetta già. Questo è un registratore digitale della Sony. Della Sony. La qualità rispetto alla cassetta c'è. Cassetta e pulita e si può regolare la sensibilità. Allora, quando è a 1, io per registrare te l'ho messa a 1, sente solo quello che c'è vicino e non distorce. Poi c'è la sensibilità media che va bene per parlare a un paio di metri. Poi c'è la sensibilità ambiente che prende tutto l'ambiente, però sente ogni cosa, capito? Fai diversa scelta, va bene. Io se domani devo risiedere a Porto Torres, anche se non devo andare a lavoro, perché devo mettere il gas, devi finire il gas della macchina. Oh, ma è la Budi, non ne danno? No, non ne metto qua. Qua è il gas misto. Ti sporca tutto l'impianto, ti fa vedere il cattramo nell'impianto e ti blocca la macchina. Già curato. Sono la portatore, se si prepara un culo. Lo piatto va. Via. Aspetta che c'è mamma, c'è su. C'è mamma che mi sta facendo. Devi salutare Gianni. Ce l'hai le corde occhiali? Gianni o più lungo. Ciao Gianni. Lontana devi parlare. Da qua. Mi senti? Caparino, buonasera, mi hai sentita? E allora oggi il giretto fatto ce l'abbiamo, anche se il tempo non era dei migliori, ma un po' di sole già si vedeva, lo spiraglio. Sì, sì, ce lo siamo fatto, il mare era un po' agitato, ma c'era il sole e poi ci siamo presi il gelato, poi soprattutto già non c'era vento a Platanona come ieri, c'era un vento terribile, freddo. Paga, me io sono andato su a Usilo perché volevo fare un po' di foto, ho visto che c'era il sole, ho detto vabbè, vado su e faccio un po' di foto su a Bonaria e qualche cosa, se la vedo, qualche fiore di montagna, eccetera, eccetera. E sono andato a fare un po' di foto, in effetti è spuntato un fiore bello, viola, un violetto chiaro, bellissimo, e ho fatto così di mezzo a questo fiore, poi ho fatto la chiesa, tutta la scalinata, insomma mi sono divertito, e poi mi sono messo a parlare al baracchino, ti ho detto contento. Ma c'era un freddo quando sono salito sulla chiesa di Bonaria, mi lacrimavano gli occhi. Anzi, credevo ci fosse vento anche oggi già, poi sono andato a ritirare le coperte in terrazzino e vedevo l'aria ferma, ho detto ma magari è bello, dobbiamo andare anche oggi, infatti era bello, ne valsa la pena, dai, però baracchino non me ne sono portato. Ma la mandronia ti ha preso? No, altri motivi. KK. Aspetta, eccomi. Mi sa che domani faccio di nuovo l'impianto come la prima, perché parlare così e non vedermi gli apparecchi davanti mi rompo un bel scatto. Lo so. Mi rode. È pronto di scatola, se ti interessa, 400 euro sto dando. Cosa il? una bomba. E vai. E 175, 975. Come si chiama, Giacaro? Della Magnum. Un istante di pazienza, di pazienza. 100 euro in meno del valore, con garanzia e tutto. Ancora freddo e porca miseria. Oh, ce ne sono. Io ci sono. Venga, allora, 100 euro tutto in blocco? 100 euro. Ho sentito la parola 100 euro. Ho detto 100 euro in meno del valore. Anzi, vale di più perché anche le sue spedizioni le ho pagate, ma... Lo saldo 400. Quello costa. Non molto più di quell'altro comunque. Le Senovo lo danno chi 4,15, chi... questo casino, chi 4,15, chi 3,89. Nel 9,80 costa 500, più le spese di spedizione, 4,79, 4,80 costa. E in più ci sono le spese di spedizione, cioè 500 euro, dai. Però poi rimani senza radio a Miraglia. No, perché tu mi dai 400 più il K. Allora, siamo a quota 700 euro. Ah, oh, scherzo, dai. Oia, allora, mi sono portato invece il ricevitore con la con l'antenna. Dove c'è il seguito io fanno scala, è una cosa che non si crede. Era in macchina, se proprio la sua arrivava bene, senza pressione, niente. Poi da casa non ne parliamo, allucinante. Chi vi te lo gioco? Dove sono? Su 125 e 425? Erano, io sì, ti sto parlando di quando era Porto Torres. Inchiodato è il segnale, anche in movimento non c'era fucina, non scendevano, caspita. E con l'antenna pompa bene, la posizione buona, i watt non so quanti. Ma dov'è? La novella cosa sto dicendo? Perché l'antenna non è alta. Beh, VHF sì. Ah sì? Se no come fa a trasmettere da casa? U e U, sì, dovrebbe essere una X, una Diamond. È vero, a casa trasmette. Ma lui si diverte più dalla macchina. Poi quelle sono antenne ammiraglie, sono antenne tipo, quanto sarà? 4-5 pavi d'onda già in VHF, in VHF non ne parliamo. Come un ripetitore TV. K. E se probabilmente quindi devo fare schifo, perché io c'è quel palla ascolta me l'ha preparato, se sto pensando a quello, ma uso sempre le cuffie, ma... Se usi le cuffie, addirittura lui non sente nemmeno il baracchino, sente solo te, quindi cazzo vuole questo. Perché a me parlare, io potrei parlare anche con mia moglie, con i miei figli, mi posso anche incazzare, no? Con mio figlio quando combina qualcosa, allora... No, ma infatti il problema non c'è. Si chiama qui, ma qua vero. Si è incarognito da quella volta che gli ha detto che le garogne non... Come? Non vado a bere, com'è? Le garogne non vi bello, mi sei piaciuto. Cazzo, te ero rimasto quando ho detto così. Chico, proprio. Cazzo. Ma il te c'è un mare di Daimler, non è migliore. Ha chiamato Daimler, dalla sveglia? No, perché piangeva, lo svegliava, capito? Che stronzo. Ma questo ha sposato, i figli ne ha? O è solo? Era solo, se da poco tempo fa, poi si è sposato, se c'è una figlia. Sì, membri a goli, buono, di quelli che ci sono molto, sempre gutto. mi ricorda qualcuno. Tu c'è un bel, tu veni via da me. Questo di sotto. Caridina. Hola, hola, aspetta, ma tu scendi. Hola, sì. E sempre con tu. Cazzo. Oh, io. Senta. Brutto vizio quello, guarda. Io mi ricorderò sempre una volta una telefonata di un bambino in centrale quando stavo facendo il 118. Telefono a questo bambino: venite subito, mia madre sta male, mio padre l'ha picchiata, ha buttato il letto in terra, tutto quanto, aiuto, aiuto. Come va il numero di telefono? E mi ha dato il numero di telefono, abbiamo richiamato, potrebbe essere uno scherzo, no? Ed era lui davvero, sì, sono io, corrette, mio padre sta picchiando mia madre, vabbè. Prendiamo, chiamiamo 112, arriviamo prima noi, però si vedeva tutto un casino, lampadari staccati, letti in terra. Questa mamma, ragazzo, l'ha picchiata forte, il bambino piccolo piangendo, non appena qua. Ehi, ci sono dei padri mostri. Così era quell'altro animale che avete avuto in sede, capito? Sì, sì, lo so. L'ho visto oggi, lo sai, col cane. Col cane con la croce. Ehi, povero cane. Vedrai che se ne fugge quel cane un giorno. Era lì a Fonte Nuovo. E si è rimesso con un'altra tipa. Ma ci sono donne a cui piace soffrire già, boh. Il governante, quello che gli faceva le pulizie a casa e tutto quanto, comunque lei ci ha messo. Contenta lei? Bisogna vedere se si è calmato o se è come prima. Dove il lupo prende il pelo, ma non è il vizio. Mica se ne andava da casa per una settimana, se ne andava una settimana con un finocchio, lo sai che è come di sudi. Questo lo sai. Gianni, quanti volte stai usando? 5. Metti la portante. Marco, metti la portante. 4 watt. Buonasera a te due, intanto sto parlando del 140 di Massimiliano, ci c'è lo Smith, che no. Mi sembra a te a posto. Non ce l'hai il generatore di segnale, no? Magari, no, ma già ho sempre fatto così. Con massimo segnale siete tutti schierati intanto. Però tu sei leggermente più basso del 9, del 9 più 20. Quanti watt stai usando? Io? Sì. 4, è freddo l'apparato. Infatti c'è i picchi. Da 9.10, 9.15 a 9.20. Deve scaldare. Volevo mettere il baracchino, ma oggi preferisco questo. Buonasera comunque. È riuscito poi a risolvere. Bulldozer. L'altra volta mi hai fatto rimanere male. Ci riscio baracchino nella muta, guardato con apparecchi professionali. Vabbè, i fili è vero, ma quando io sento tutti in positivo e lui era l'unico in negativo, qualcosa vorrà dire. No, non fate affidamento Barattini, non ti devo fare, guarda anche lui poco fa sul canale 20, dice sei negativo, comunque stai ricevendo, col baracchino, ma va pazzino, non me la butti nuda, se io sono in cuffie, è come generatore segnale, prendo una radio senza antenna, tipo un 430, un 7400, un 780, un 680, le stacco l'antenna, le metto il carico fittizio, è vero che il mio segnale oscilla in positivo, cosa devo dire? No, io non ne faccio affidamento sul baracchino, assolutamente, non si fa affidamento, perché quelli smitter del baracchino, un oscillatore non ne hanno, hanno praticamente una resistenza collegata al generatore segnale ricezione e basta, gli HF sono tutta un'altra cosa, quindi quando io ti dico, mi dai un segnale e mi dici col 140 sei negativo, come hai visto che l'ho chiesto anche a Giulio col 440, ma torno in positivo, perché è più affidabile, capito? Non è vero che ti offendo. Anch'io non. Sui Marocchini sono sempre tanti io, perché hanno questa cosa di dare a volte segnale in negativo, ma non è esattamente così. Questo ad esempio andava in negativo, anche sul frequenzimetro mi faceva calare la frequenza. Adesso ho tarato e ho stabile il segnale. Adesso tu stai ricevendo col 140, giusto? Oh, il segnale mio com'è? Sta oscillando, è negativo, è positivo, è stabile, com'è? Positivo, sì, 920, 80 muta, di poco aumenta adesso, non è molto evidente. No, ma la cosa strana era che, Claudio, che con quell'apparato non avevo mai visto nessuno in negativo. E quel caso è stato strano, in effetti, perciò glielo ho detto. Poi ho visto che è ripassato sul 20, e poi l'ho sentito normale, senza picchi negativi, vuol dire che qualcosa l'ha toccato. Boh. Va bene, comunque, riprendi Gianni. Un attimo, dai, te lo dico che adesso hanno 4 watt, sono, Claudio, non 5, 4 in 1000. Te lo sto dicendo adesso che ho acceso diciamo, gli strumenti, perché avevo tutto spento, dai. Ho acceso gli strumenti, sono 4 watt, esatto. 9,10 già, 9,10. Sì, infatti stai salendo il segnale. Ma lascialo scaldare, Marco, non lo toccare, voleva essere lo smittere e tarato. Sì, ma infatti, perché abbiamo fatto delle tarature come adesso, che c'erano dei trimmer segnati e toccati e messi al senso contrario. Adesso li ho messi giusti, come da manuale, perché ho tutti i riferimenti del 140, del 180 e del 440, e quindi li ho messo giusto. Adesso sto andando praticamente da 10-15 watt ora a 40 watt modulati. Non sto oscillando come deve, c'è ancora a fare qualche taratura, però meglio di ieri, capite? Siccome questa è una radio diversa da quella che aveva, e quindi è così. Piuttosto modulazione, come siamo messi di modulazione? Buona. È buono, ma non per potente, come dice il fatto. No, questo è normale, questa non è stato toccato niente ancora, dopo te lo faccio sentire. L'unica cosa che posso fare è mettere il puntale e fare già così. È sicuramente già salita di un po'. Sì, appena appena. Ma quella richiede Massimiliano Budoso. Sì, questa nuova. Abbiamo venuto l'altra e preso un'altra nuova, ma nuova però, non dico nuova così, nuova ancora più nuova di quella che c'è tu, Marco, lo dico perché non è che abbia problemi, nuovissima, frontalmente sopra il frontale originale non ha assolutamente niente, un po' più nuova di parte anche all'interno, l'unica cosa hanno fatto, l'hanno aperta, si hanno segnato i trimmer come posizione, però non avevano riferimenti e quindi qualcuno l'ha messo al contrario, adesso io l'ho messa come era, come da manuale, e pian pianino la facciamo andare come deve andare. Adesso questo è il primo passaggio praticamente della modulazione. E poi vediamo com'è la situazione. Riprendi, Marco. Papà. Ok. Mi è sfuggito quello che volevo dire. Che culo che avete a trovare radio perfette, ma una per Gianni non la potete trovare. Gianni deve decidere cosa vuole, perché in questo periodo Gianni un po' tra alti e bassi. Mi piacerebbe impegnarmi, perché se un impegno che altro quanto più nuova di questa, non ho problemi, questa è impeccabile già, io ne ho trovato due. Questa è nuova come l'altra che ho, forse sono della stessa matricola. Nuova, veramente molto bella, tra l'altro ha un prezzo molto gradevole, quindi io ho due agganci fuori e perciò. Le chiedo, mi mandano, ma come dico io, altrimenti non manco lo ritiro. E già mi deve decidere. fatto, quanto so, perché c'è questo imbecille che le sta dando un po' di fastidio, quindi dal momento in cui decide di fare qualche operazione, vediamo cosa si può fare. Dove se c'è mare, lascia passare il mare. Infatti lo sai, Gianni, non c'è un problema. Quando decidi, vediamo. Sì, l'unica cosa che c'è su quel frontalino è che manca la vernice del superiore e dei due lati, questo invece è ancora l'originale, grigia come i tappi, invece quella siccome era un pochino sbiadita è stata tolta del tutto e portata al colore originale come sottofondo, niente di particolare, va bene lo stesso, questa invece non è neanche quello. Impeccabile, ma d'altronde come si 80, non è che non si 80 che ho preso, che ho ritirato io a Gianni, che era il mio, è nuovo come questo, uguale precisamente come un graffio, anche lì è stato lucidato il superiore e i due lati, perché era un pochino scolorito e basta, invece questa neanche quella è stata fatta ancora, quindi è veramente una bellissima graffia. Le tarature che ti ripeto hanno aperto, toccato, se li hanno anche segnati col pennarello nero, però non hanno fatto le cose giuste, quindi lo sto portando alla normalità. Allora adesso vi faccio una prova. Sono a 40 quasi modulati, una cosa del genere, dovrebbe andare bene. Come potenza microfonica non è ancora al massimo, ma già facciamo andare. A te Marco. Marco, non ci sei più. Non ricordo come si chiamava il tipo di tempio, Claudio, che non mi ricordo più. Franco Lupo Solitario. Lupo Solitario. Allora voleva sapere Marco Condo. Lupo Solitario, Condo. Cosa è successo a Marco? Comunque Claudio, con questa regolazione mi sono sentito la registrazione, va bene, questo microfono. Alla grande. Alla grande, nessun problema, già, va bene, alla grande. L'ho dovuto aprire, ma già è servito a aprire, svoltato tutto, l'ho dovuto svoltare anche lo schienino, diciamo la base, con tutti i componenti, c'era un componente dritto, basta quello lì. Ho riabbassato il microfono, ha fatto quel rumore. No, va bene, a me va bene. Cioè, tiriamo con appena alle 5, dovrebbe andare di lusso. Ma quello è un altro che c'è Massimiliano adesso, dove si ne va? Tanto un altro. L'altro ce l'aveva venduto, abbiamo venduto la sala, abbiamo preso un altro nuovo, diciamo, da avanti, mai fatto toccato, bello. Ma non c'è anche quello grande gatto? Ah, boh, non lo so, non c'è andato anche da solo, non lo so cosa c'è, non mi ha trovato questo, perché ho arrivato ieri, ora è una bella radio. No, pensavo che non interessasse più 140, non gli interessava quello, perché lo stavo un po' degradando il 140, ma forse è quello che aveva. Sì, quello che aveva. Infatti si è deciso di non darlo qua per non avere problemi, è stato versato a uno che li vende e se lo mette a posto lì. La forte che l'ha apparito, io me lo ricordo, sia più forte di questo. Sì, non mi fede. Associato tutti i picchi. sigaretta, domani non lavoro, quindi c'è tempo, c'è una mezzanotte, luna, c'è due alfabeti puntate sopra, è aperto, e poi vediamo. Stai tranquillo, già lo facciamo uscire, qua manca solo la radio, infatti sono già a 100 piedi qui, 100 o 110, non c'è problema. Quindi infatti ci siamo già tutti. Adesso si tratta di darlo un picco in più sull'LC, che lo faccio con calma perché così non mi viene a tremare davanti di Marco. Senti l'Alzheimer. Allora, guarda, come ho finito la sigaretta, ti faccio vedere una cosa. Così, non ti voglio aumentare per 5 minuti, finisco la sigaretta. Ora l'ultimo tocco e poi dici se va bene, ok? Ciao. Eccomi qua, mi ero sentato un attimino che ero al telefono. Ti ero sentato? Ero al telefono. Noi eravamo preoccupati, avviso però Marco. Ehi qua, preoccupatissimi. Ma futti Dio, non c'è problema. Ti abbiamo interpellato, lupo solitario, quello del tempio si chiamava, lupo solitario. Ah, ho sentito nominare altre volte, ieri mi pare, lupo solitario, ho capito. E chi era invece quello dell'atto dolce scemo? Ruggero Lupo mi pare. Sì. Non ricordi Lupo, quello quello mi sembra che è caduto alla finestra, poveraccio. Ma quello che abitava qua vicino a me. Via Valdetta, claro. Sai chi era? Era il fratello di quello che aveva quel negozio vicino al tabacchino. Ti ricordi via Valdetta c'era un negozio alimentare? Oh, capito, chi ho capito. Un peso, un peso. Ma questo è lupo solitario, Gianfranco, ma io l'ho sempre chiamato Franco, ma è un uomo grande, non si va, poeta Gian. Avrà almeno una settantina d'anni, forse anche di più, non lo so, però ha sempre trasmesso il 27, capito? Ma questo lupo che stai dicendo, me lo sono ricordato, mi diceva io non credo che ero di lavorare, io forse poi lavoro, io che ho? Allora, cambio gli occhiali, metto quelli più luci e faccio la regolazione alla LC e vediamo se sale di potenza, se sale di radio e se sale, faccio gli ultimi trucchi, okay? Segnati bene tutta la radio, tutte e due, perché tra due secondi vi spaventate. Esatto, dai. Comunque ce n'è una di radio che posso comprare, ma vendi su, viene sempre. Ce n'è una in sospeso, ed è bella. Ma di 140 o di 80? 44. Dammi il 744. 744, allora io te lo dico tanto Giulio, sto ascoltando la storia che faccio, quella di Giulio, prima di darla a Franco, io ne ho avuto 12, a tutte 12 ho cambiato le luci, te lo sto dicendo, perché non me lo sappi, perché poi quando tu vai a comprare un 440 da chiunque, io non ne ho di 440, io c'ho 80, 140, 430, 440, ho deciso di non prendere più perché mi sono costato una barca di quattro. È l'unica radio che, a differenza del 430, che è tre conversioni come il 440, le due conversioni, il 140 e il 180, non ti danno mai problemi sul VCO, mai, e poi mai. Il 440, da quando l'hanno prodotto, l'unica cosa che è difetta è il VCO. Stai attento che il VCO, per mettere a posto quella radio, ci vogliono dalle 150 alle 250 euro. La mia fortuna è stata che con Fabrizio mi è stata trovata un'altra a peso di cambio, e fortunatamente c'era il bucio integro, altrimenti quella radio era da buttare. Allora io cosa ho fatto? Ho fatto Fabrizio, l'ho messo a posto, poi me la sono tenuta, l'ho venduta a Franco e così via, e giro per lo sapete. La radio che c'è a Giulio è completamente nuova, ha il VCO nuovo, tutta la parte del VCO, PLL, tutto l'allineamento è nuova, serve di nuova. Se vai a comprarne una che non ha il VCO nuovo, che praticamente è di quella serie e ha lavorato sempre con quel VCO, prima o poi, ma non te lo dico Gianni per pignoleria o per dirti non la comprare, perché è una grandissima radio. Al difetto del VCO, quando tu vedi che anche mentre stai trasmettendo ti si azzera il frequentimetro e ti segna tutti i puntini, tu sei già in allarme. Quando l'accendi, per meglio dire, quando l'accendi a freddo, non appare subito il frequentimetro e appaiono tutti i puntini, dopo 10-15 minuti ti appare il frequentimetro, tu sei già in allarme, ma allarme grosso, ti devi preoccupare veramente. Sì, era già un problema che sapevo con la radio lì, lo so, però so che quella là è stata aggiustata, non so se era stata fatta in VCO. Coccolo, buonasera. Ciao Sandro, buonasera. Intanto ha fatto il VCO, ma io penso che a Sassari chi conosca il 440 bene come me, come Fabrizio, non ci sia nessuno, quindi dirti a te che è stato fatto il VCO è una cosa seria. Se tu non mi dici in via privata la roba prende da tizio e se ha fatto il VCO, ti posso dire che se è vero o non è vero, perché non confrontarmi, ma tutto l'orario che ci sono a Sassari, fuori Sassari, compreso Alghero, Porto Torres e altre zone, sono uscite sempre da qua. Guarda Sandro, te ne può dare atto di cosa abbiamo passato con un 440 che alla fine si è rotto le palle anche lui. A te Sandro, buonasera. Caffa, buonasera circolari. Claudio, Gianni, poi mi scuserete ma ho appena acceso e ho sentito qui. Ok, aspetta che blocchiamo che siamo fuori. Sì, sì, una bellissima radio, niente che dire. Ho avuto anche belle sensazioni, però diciamo che un po' particolare, più che particolare, delicatissima. Tu sarai venduta, l'hai venduto con 340? Ciappa, il mio 140, il mio 440 si trova esattamente a Torino. Claudio, non c'è bisogno del telefono in privato, è una tua radio, siamo andati insieme a portarla, se te lo ricordi, a quella persona, e tu gli hai messo anche il trasformatorino per il microfono. Siamo andati assieme a portarla, lei è una mia radio, faccio pure, però io ti ripeto, delle mie radio, l'unica che io ho riparato, è venuta a Sassari, quella di Giulio, ma non l'ho riparata io, stai attento, mi hanno preso i pezzi, è stata mandata, guarda qua c'è Sandro, ti sto dicendo qua, perché quello che avevamo di a pezzi ricambio, ce l'aveva Fabrizio che mi ha smontato tutto, mandata da Bianconi che mi ha dato l'input Sandro. E se ben ti ricordi Sandro cosa ha fatto Bianconi? Ma allora se ricordo male Bianconi cosa ha fatto? Sì, un attimino ho controllato ciò che aveva, però c'era qualcosa che non andava e quindi diciamo facendo riferimento diciamo alla spesa e quant'altro si era bloccato lì. Adesso correggimi se sto sbagliando a quanto mi ricordo. andare e a tornare, ce l'ha rimandata indietro dicendo non ne vale la pena. Ok, a quel punto, dicendomi, siccome la radio esteticamente era abbastanza in ordine, nuova, abbiamo tenuto a pezzi di ricambio, capito? Per dirti, no, non ti capisco, siamo andati assieme a portargliela, gli ha cambiato 440, io ho venuto molti 140, molti 140, più che 440. L'unico, il primo 440 che ho venduto è Roberto Quadrato, io personalmente, da me a lui. Il C80, primo C80 che ho avuto appena uscito, l'avevo venduto a proprio per prendere il 440 a Antonio D'Alessio. Il terzo, non uscito da qua ma da casa di Franco, è quello che c'è Giulio. Altri 440 io non ne ho venduto. Ehi, fai voi, vabbè. A un tuo carissimo amico. Memorizza bene. Durante Lotti, portiere americano. Durante Lotti anche. Ma stai dicendo a Gio Maria, non l'ho venduto io a Gio Maria. No, Durante Lotti quando era a casa della madre, adesso non abita più la Teloce, dicono che abita a Capiscotti. Vedi, stai sbagliando ancora, ho capito, tu sei cerratino, no, quella non è la mia, assolutamente, la prima che aveva Tino era la mia, che in fugno era bruciata, l'abbiamo riparata, che tra l'altro non era neanche la mia, era di Antonio R20, e tu mi devi dire mai una cosa, io sono un muro di ferro, caro mio, quella era di Antonio R20, era 2 o 3 anni qua a casa. Antonio è andato via da via Fermi, che si è trasferito ai punti, Antenna non ne ha messo più, ha messo botta di ferraria che se non mi si faccia, è rimasta 2 anni qua, 2 anni, linea completa, ok? Dopodiché un fulmine è entrato dentro, ha bruciato, mi pare, il PLL, non bruciò il PLL, l'ho mandata da Guidetti, allora non Bianconi, Guidetti, l'aveva messa a posto, perché non era la mia, ma era di Tino, messa a posto, data, dopodiché Tino ce l'aveva venduta e ne ha comprato un'altra nuova, sorry, è nuova, mai usata, nuovissima, che gliel'aveva fatta avere, Franco Delta 1, non ci sono problemi, stiamo discutendo, ti stiamo parlando. E quella ce l'ha ancora, quella è nuova, non è quella che aveva prima, non è roba mia, quella l'ha comprata Franco Delta 1, l'ha venduta a Tino, e ce l'ha ancora, è quella che sta usando Tino, non ha mai avuto nessun problema. Una cazzata, una volta non l'ha portata, l'abbiamo messa a posto e basta. Io però mi ricordo che eravamo usciti insieme, tu gli avevi messo l'alimentazione nel microfono, se non erro. Sì, perfetto, ma non è roba mia quella, Gianni. Quella lui l'ha comprata da Franco Delta, nuova, l'ha pagata una carena, nuova, solo nuova, Franco l'aveva comprata nuova, perché non era più in produzione ma c'erano residui di magazzino, e quindi l'ha comprata nuova, capito? Era nuova, Franco aveva ancora il laboratorio in via Grazia Deledda, capito? L'ha comprata nuova, proprio nuova, ed è nuovissima quella, solo è nuova, nuovissima, se ti riferisci a quella non è la mia, non è assolutamente la mia. Ha ragione Claudio, Io pensavo che fosse di Claudio, no, io pensavo che quella che tu avevi aggiustato dopo il fulmine fosse sempre la stessa, capito? Non mi era aggiornato nei passaggi. C'è Tino qua, intanto lo sapevo, stavo ascoltando. Ho detto cose sbagliate, ti ciao, buonasera. No, ciao Claudio, no, stavo seguendo anche i bambini, qui non è che... è così, già, è così, come ha detto Claudio. Ciao, io pensavo che fosse ancora quella che aveva avuto il fulmine, quella che c'è tu, capito? Non mi era aggiornato. No, assolutamente no. Un attimo, devo chiedere una cortesia, siccome devo fare delle comparazioni. Claudio, poi ti spiego per che cosa. Claudio, schiacciami la portante e non modulare un attimino. Non fare molte comparazioni perché questa è una radio che sto parlando. Ciao, un abbraccio. Ok, dato saluto Tino. Ciao Tino, buonasera Sandro Paolo Porrose. Gianni, schiaccia un attimino senza modulare. Guarda che sto uscendo con 4 watt, ti sto avvisando. Ok, perfetto. No, vabbè. Già me ne sono accorto, ok. Niente, sono via cat col computer. Ti ricordi che dal mitico 950 avevo il cat, avevo veramente il computer, quindi l'ho combinato su questo, tutto lì. C'è una leggera differenza tra Claudio e Gianni. Gianni? Sicuramente perché Claudio sta usando più watt, è normale, sto usando 4 watt, è normale che sia così, dai. Tino, buonasera, sempre ascoltando, non già vuoi entrarsi da chi bussa. Già. Ciao. Diciamo che mi sono seduto 10 minuti al computer seguendo un po' i bambini. Non fa modulare con no, ma con un po' di bailame, quindi evito e niente. Comunque, contraccambiato l'abbraccio, Claudio. Io ti saluto a casa tutti, non c'è problema. Magari ci dimenticate di aggiornarti, ma io ho vissuto quegli anni continuo, quindi non ti posso garantire che è così. Era un paio d'anni la radio di Antonio, la linea completa, che c'è ancora lui, quindi che cosa ha fatto? Giustamente è stata riparata dal Miretti, quindi mandata alla Kenwood, perché non era una cosa da poter fare noi. E subito è stata trovata l'occasione per venderla in ottimo stato, una volta che è stata allineata alla Kenwood, quindi alla casa madre. Era perfetta, però ho preferito vendere e comprarne un'altra nuova, tenendosi naturalmente sia l'MC60, sia la colonna esterna, sia l'alimentatore, quella che ha tipo suonanti e che è nuova è dire una fesseria, una vetrina nuova, perché è nuova, non fa ancora la comprata, non l'ha mai usata, capito? Quindi niente particolare, nessun problema, perfetta, ti dico che spinge moltissimo, non l'ho fatta io, se l'aveva fatta Franco, e quindi ti posso garantire che quella è un'ottima radio. Quella c'ha un ciclo nuovo, perché è fatta praticamente, usata pochissimo, e quindi non sfruttandola, è chiaro che il ciclo rimane integro, perciò è una radio dove si può fare, può avere un attimo di garanzia. Marco, a te il microfono, scusa il passaggio alla Falcone. Allora, da questo momento io vi chiedo un minuto, ma dico un minuto, che apro la luce a questa radio e poi faccio il passaggio, mi dite se è tornato il giorno o è rimasta la notte. A te Marco. Ok. Ciao Tino, ciao Sandro. Sì, ho letto che da poco l'ha fatto un altro tipo, questo difetto del VCO, però ci ha messo mano lui e ha fatto mezzo casino, perché sui 12 metri e 17 metri può essere, sì, ma da Vark, e lì è rimasto il problema, quindi l'ha fatto male o in modo incompleto. Allora, mamma mia che paura. Quindi Gianni, è tornato il giorno o è rimasta la notte? Giorno. Lascia il giorno che va bene. Un po' di grigiore già c'è, ma... No, sto aspettando la lettera, tanto me l'aspetto da un momento all'altro. Da parte del condominio e... spedisco tutto, concessione, quanto c'è, così almeno sono convinti che Ma possono farci un capo. Ma non ti abbattere. Quindi è tornata la luce. Ma ci vediamo, non ho fatto mai tu piedi, tu sei mai 640. Vediamo come potenza. Sandro è un po' di lancio, eh. Allora i picchi che lo fa andavano da 15 a 40, 30. Adesso vanno da 15 a 70, da 20 a 70. 50, 100, 50 l'importante, 60 l'importante, 70 l'importante, 120, 130 modulati. Cosa dite? Vabbè, già va bene. Claudio, la luce per me torna quando vedo di nuovo davanti a me e tutte le cose come erano prima. Ah, l'ho perduto. Scusa già, ma cosa è successo? Che aggiornami. Gli aggiorno. E praticamente quello che sta a fianco di Portone ha organizzato una riunione per farmi togliere l'antenna, perché c'è quello disturbo quando parlo, non nel televisore. Senti a me parlare. No, vabbè, era successo anche a me anni fa. Non so se ti ricordi quando stavo alla Teocia, addirittura l'ho sentito nel citofono, vabbè, di notte, e quindi si sono lamentati giustamente, però per quanto riguarda la TV ciccia, se fai TV hai diritto di uscire l'amplificatore di antenna, e tutto va bene. Scusate la ruota, Sandro, ma portatore o Salghiero? Non ho capito bene, scusa Sandro, rilancio a te. Ok, la riprendo io. Non ho capito perché sto un attimino che sto trafugando, mettendo un po' in linea. Si può ripetere? No, vabbè, volevo sapere se eri di Alghero o di Porto Torres, Sandro. Lucolo! Cappa. Ok, no, Porto Torres, diciamo, essendo di Alghero, diciamo, a parte il segnale, sarei, diciamo, una mina. Vabbè, no, già ho sentito gente di Alghero con questo segnale da parte mia, io sono tutt'altra parte di Claudio, quindi lo prendo in piena. No, vabbè, ciao Luca, niente, volevo sapere giusto così perché pensavo che era un Sandro che ho conosciuto io tempo fa e niente, ho venduto un carrello portabarca, niente di che. Ok. Questo è Gino Sandro Cona. Se non ricordo male anche Claudio me ne darà atto. Non sbaglio, mi sembra c'è un Sandro Cona di nome antico, se non sbaglio. Così è Claudio. Conan. Sì, è Sandro Cobek, come si chiama, non mi ricordo. Ti ricordi Cla, che ne avevamo parlato? Sì, Sandro di Alghero. Sandro di Alghero, sì. Già è quello lì. Va bene. Dimmi Marco, cosa c'è? Nulla, mi stai sordando. Mi sei già detto che dovrà tornare il giorno, è tornato il giorno. Adesso sento Massimiliano che non riesce a prendersela. Mamma mia, come sto. Cosa c'è Luca? Dimmi, cosa c'è? Io? Sì, cosa c'è? Cosa stavi dicendo? Scusa, stavo contando. Cazzo, sempre Magnani, ancora una guida di Magnani. Dall'otto c'è Magnani, sempre Martegheni. Cazzo, di me fare un gufo. Ocla. Ti. Se no non mette foto di James Bond, Lucariello. No, non l'ho fatta, no, non è James Bond, è... ma... Gabbia e Garco di Bovari. ho visto. Non avrei mai messo quelle foto là, non lui. Cazzo, quale foto? Ah, guarda, io ho pubblicato, le avevo un'occhiata, controlla. Tino, come ne ha fatto? Cioè, guarda, mi fa pezzi, ma pezzi. Prende la mia foto e mi fa, per mettere le prego. stato? Ma ho visto una tipo che diceva, ora siamo i denti. Ok, ok, scusate un attimino. Oh Claudio, allora ti faccio due passaggi, voglio vedere un attimino e le variazioni, dottore, ci sei? Sì. Ok. Perfetto, allora controllami questo passaggio un attimino. 9 più 5, radio 5. Ok. Ok, vedi un attimino questo passaggio. Sempre uguale, ciao Massimiliano. Cambia appena il segnale. Allora più in basso, sì. Buonasera a tutti. Ok, ciao Massimiliano, buonasera, ben entrato. Ok, avanti Massimiliano. Via via, buonasera a tutta la ruota. Io ben entrato, ti sono passato sopra. Capito, mi sei passato sopra? E me. Questo no, questo no. Ma io Massimiliano, fai serio, dimmi se va bene sta radio. Sì, va bene, 70. 70 sei là. Non ho capito. Stai usando il 70? 140 tu sto usando, cazzo, 70, le balle il nonno. Ma perché così questa radio? Non ti piace, è troppo forte. Cazzo, vai la radio. Cazzo, prima ero un giocattolo. Io poco fa ho detto, datemi un minuto. La luce, se no Massimiliano non dorme. 130 watt modulati. Bisuga. Ma adesso si sente che bella radio, forte, picchi positivi, clap. E tu cosa metti quando me l'hai portata? Sì. Te l'ho detto, tu sei il re del 140. Allora da mago bisogna fare magie, se no poi non si fanno le cose. Come ti ho detto, inizialmente i trimmer che sono stati segnati in nero erano tutti al contrario. Quindi qualcuno che l'ha aperto e pensava di fare chissà che cosa non è riuscito a togliere i piedi, perché ci vogliono riferimenti, io riferimenti ce li ho e quindi i risultati poi arrivano, non è che ci siano molte cose. Chiaramente tieni conto che il finale da 25 watt, non il prefinale da 25 watt, non da 50 watt, però la spinta oltre i 100 ce li ha tranquillamente, da 50 a 120, 130, da 40 a 70, 80. Questo è il massimo che si può fare in questa radio, perché se spingi di più rischiamo di far riscaldare troppo il prefinale e quindi può andare o in protezione addirittura a bruciarsi, perciò non voglio rischiare. Ok, microfono per Tino, così ti saluta che entra poco avanti, Mucolo. Ehi, ciao Massimiliano, buona serata, ben sentito. Stavo guardando un attimino un bullo che c'era su Facebook, il figlio di Goi Paridi, che è poveraccio. Sandro, poco fa ho sentito un po' cambiamento di segnale, niente, però un po' di alternata. Sì, purtroppo. Purtroppo ne sono a conoscenza di questa piccola alternata e niente, almeno per il momento ne devo subire fino a quando si troverà, diciamo, il punto doc. Quindi in questo momento penso di non averne alternata. Vediamo un attimino. Mi confermate che c'è o non c'è? Ma riprendo io il microfono. Per me sussiste ancora. C'è una leggera alternata. Poi confermeranno anche gli altri. Claudio, se senti qualcosa. Io la sento. Leggera, mischiata la ventola, proprio leggera. Vediamo un po', Gianni, la senti tu alternata? Yeah. Parisi. Gianni Drommi. Marco. Poco alternato. Buonasera. Voi la sentite poco perché siete lontani, ma se venite un po' più vicino a Sandro già c'è. Sandro, già si può togliere quell'alternata, sì. Io ci ho parlato con Gavino, mi ha detto che in poche parole ci vuole un condensatore all'uscita, all'ingresso della 220. Ci vuole un condensatore, capito? Non è un rosio di... non è un'alternata di cosa, di alimentatore, capito? Quello è un rosio, quello che fa l'alimentatore, l'alternata è un'altra cosa. Quindi la risolvi mettendo questo condensatore. Ok, sì, lo so, ma cioè c'è da dire anche una cosa, che io logicamente attualmente sto usando un amplificato, capito, un mic amplificato, e come sappiamo tutti il mic amplificato che assorbe anche il respiro. Le classiche ventole che voi sentite, logicamente, la classica ventola, diciamo, dell'apparato che logicamente lui subentra, diciamo, per raffreddare il tutto, a parte, diciamo, l'alternata, sì, questa alternata, diciamo, perché c'ha il suo alimentatore, diciamo, interno all'apparato, quindi, diciamo, non è come un alimentatore esterno che viene alimentato, tutto lì. Sì, sto aspettando una risposta di una persona, e Claudio Sentato mi ha capito che probabilmente prossima settimana dovrà scendere Olbia, e quindi se scende me lo fa lui. Andrà bene, ok, avanti, ciao Tino Muscolo, buonasera, saluto a tutti comunque, a tutta la ruota, mi sono venendo sentito a Gianni Capridue che lo rilancio, avanti. Tutti, buona domenica, buon fine domenica, scusa un attimo. Beh. Ok, perfetto. Antonio. A Sandro, a Tino, a Claudio, e mi sembra che c'era anche Gianni che sta parlando poco. Questo scemo me l'ha spaventato e sta prendendo a burlare, non è stata qualche cosa. Riprendi Sandro, ti rimetto il cambio, vai. Capa, ciao Gianni, nonché Capri2. Ben ascoltato, ho dovuto inserire l'amplificatore in antenna per poterti tirare fuori, ma logicamente non è colpa tua, siamo un po' distanti. Un attimo, mi sposto al canale 20. Le tue ragioni. Va benissimo, dai signori, io ne approfitto, mi super saluto, buon proseguo di quel sera a tutti quanti. Perché domani comincia una nuova settimana di battaglia. Rimetto tutto a Gianni Capri2, poi fa girare avanti Gianni. Bene, grazie Sandro, buona, tutto per domani, buon venerdì, io non farò molto, lo faccio così, giusto per farlo funzionare. Ho fatto un paio di passaggi stasera con Graziano, con Gio Maria. Ok. Tutto bene, Tino, mi ascolti? E come no, diciamo che riesco a toglierti fuori, dai, un Santiago di 5, Radio 5, buono, per me va bene, ciao Gianni, Capri2. Comunque, dai, ne approfitto anche io a fare i salutoni, perché domani sarà una lunga settimana di trabacco e bisogna riposarci un pochino, anche se questa settimana è stata un po' così. Lancio il mic a Claudio, aspetto il giro di saluti e poi vado a nanna. Ciao a tutti, riprendi qua. Io ho passato sul 20 un attimo. Ci sentiamo nel prossimo. Avanti Luca. Avanti, saluto, dai. vogliono da Capodomani. Buonanotte, avanti gli anni doppio Ruti. A me lui dopo devo dire una cosa. E so qua, dimmi. Vabbè, non era giusto una cosa così. Ripari il PC, sì. Sì, sì. Dai, ci sentiamo sul PC Blu. Ehi, occhio, non c'è problema, fammi sapere. Però ti lascio il numero, non problem. Va bene. Ehi, va bene, ciao a tutti, buon 144. Anche a te, sì, a domani, ciao. Ciao, buonanotte. Ma Gianni c'è il doppio room o è drumetto? Marco, io faccio un secondino di bianco, Luca. Scusate un secondo, faccio un attimo di bianco. Parlati Marco di nuovo, dai. Cappa, ciao K2, ben entrato. Si sentiva la fisarmonica di fondo addirittura. Sì, stavo ascoltando un po' il mio figlio, ma l'avevo battagliato stasera perché ha fatto il CD e non ci voleva mettere quel peso, stavo ascoltando quel pezzo e lui si mette roba grossa, mi stava ascoltando, questo che non ci mette anche il contratto a battagliare, bravo, ok, poi si vedrà. E... ok, ma non sapevo perché di tu, perché non so neanche chi c'è, io ho bussato, come sono entrato come un intruso, Claudio non si è spostato comunque, e così Gianni sta tenendo a modulare, sta tenendo, bisogna anche fare qualcosa, anche vengo a Sassari, a battonare, comunque io penso che con un filtro che si risolva, ci sei già. Ehi, hey, ma per la questione di Gianni stai dicendo? Però K2 non è questione di filtro, lui sente la voce di Gianni attraverso la parete, non ha nessun disturbo né in TV né radio né niente. Beh, cosa, io in casa mia allora non parlo perché mi sente il coso, ma non vedo dove si chiama io, o via che è, ma io lo voglio vedere in faccia, cosa succede domani per guardare. Questa non la sapevo. Che già li faccio, lui c'è della fuori della camera. E su la entra. Ma infatti io ce l'abbia mandato, riprendi Luca. Yeah. Oh, yeah, che casino. Già, lo sai che sono ripassati dopo le frittelle. Mi sono già fatto due pezzi. Ma io mammi. Fatto bene, erano buone, no? Già, se ti abbiamo chiamato per rivoltemi. Vedi 10. Chi c'è rimasto qua? Avanti. Tutti assieme. Mamma mia, buonasera. E a K2, vabbè. K2 e K3. Ti stavo chiamando, per questo batto. Ma dico non sono fatte le pareti. Colori, questo avevo ridere, Marco mi ha fatto. Che tu padre, non è che sei tu malanato, di tu più con la voce. E su Maria, quella non la sai, quella è la sera, mi sto pisciando, grazie, bubu. No, infatti K2 non ci credeva, credeva fosse una burla. No, no, ma infatti non mi ha lasciato problemi, anzi avrei fatto di peggio. Vabbè, non è pane verticale, ma è libero, sei Marco. Chiedi la mamma che mi sta schiavizzando mattina e sera per uscire, che lì ancora non se la sente di guidare. Oh. Vabbè, sono contenta, va là. No, ma voglio essere accontentato io, quindi magari, che ne so, di sera cerchiamo di vederci. Cava, cava, ci siamo tutti. Di sera stavo per entrare in frequenza per farti vedere qui, ma c'era, come si chiama, delle cantine in paese, dei vini. Questa non ho capito, allora c'è l'assaggio di vino. Già, un nuovo cantine, però io non sto bevendo già da un bel po', e io sì, ero con Claudio in giro, no? Hai capito che nelle tappe, diciamo, aveva l'organetto appresso, diciamo, venuti all'una e mezza di notte, nulla ne ho bevuto, manco a dire qua assaggiano, niente, io ho pagato il coso, il calice per solidarietà, cosa roba qui, hai capito che sto per partecipare, però non mi ha protocolli planetari per dire per voi una cosa e l'altra, anche trattare un po' insieme. Ok, ma c'è la vino buono, c'è sono venuti anche da poco mico, insomma, una guida. Quindi Luca. Ma anche da mangiare c'è? Ciao Gianni K2. Luca, buonasera, mi sto riprendendo la voce, diciamo, sta diventando più piccante. L'altro giorno ho passato giorni buti, prima all'orecchio, poi la nuova, ma Roma, adesso mi sto riprendendo. Ok, e a Roma da mangiare c'era salsicce, capito, sul piccolo olive, formaggio, però dopo siamo entrati, poi c'era mio cugino, con lo sgramento, lì c'è un quale, sta cercando di fate tutti già, stanno a mostrare poi un'altra cosa, un'altra compassione, subito come sono arrivato con Claudio, già proprio niente, ho detto, niente vino, niente roba grassa, devo stare, ho detto, però, ma a parte che ho fatto parecchia gente, è stata una bella cosa, è stata. Bene, Vedas, riprendi il Marco Foto. Perché si beve, perché è alcolico, fosse stato alcolico non sarebbe venuto nessuno. Ok, invece tu ti con le pulmi da fuori, no, però hai capito la cosa, era tranquilla, la cosa può per te, come puoi fare nel casino, però c'erano due pattuglie di carabinieri, proprio ogni tanto si spostava la loro le prestazioni, ma niente, mio figlio già bevuto, hai capito, però sempre nella norma. Però il vino era veramente buono, c'erano tutti quanti questi assaggi, e c'erano, come si chiama, c'erano dei barattoli, io non ho chiesto, con questa roba ha ragione, sicuramente già saranno stati dei cosi di riccio, confermi? E piccoli erano, c'erano barattoli piccoli, sì. Io ero proprio roba così, Claudio ha detto, no, con questa roba fa roba di cosa di... Quanto quello sarà stato riccio, come si spalmate in questi cosi che hanno fatto per croccantini, cioè vedere il pane fatto a questo riccio. E capire io nulla, già non ho detto niente, vedete proprio sono anche lui un po' in casa, ho esagerato con la pasta, mamma mia. Le costagne a stelle, non è dopo una cena, quindi non è cucina, non è mangio, perché stava andando bene lì, lui stava andando bene, hai capito come ha cucinato, già mi sono di nuovo, ma domani mi ritrina, domani devo scendere nei chili, perché non sto male, hai capito? Perché stai facendo così? La presidia con i tentatori c'è a casa. E voi cosa state combinando? Stavo parlando di frittelle, dunque, quindi avete iniziato il carnevale in anticipo? Oh, aspettate un attimino, io mi sono spostato sul 20 e sto facendo delle tarature. Non è che me ne sono andato così maleducatamente. Ciao Gianni Caprile, ciao anche chi è uscito e chi è entrato. Sono sul 20 un attimino per non disturbare a voi, sto facendo delle tarature, poi arrivo subito. Qui no, l'ho già detto io quando ti hanno passato poco fa. Comunque buonasera Claudio. Stavo dicendo a Luca, ho detto ma cosa c'è il carnevale in anticipo avete fatto con le frittelle? Oh, c'è il carnevale lì alla piazzetta, e passano nuove salfate piene di frittelle, buone, buone sì. Gianni, cosa ne dici tu? Gianni più. Eia, belle grosse quanto un pollice già, belle fatte, come piacerà a me, non dici sì, io non mi piace. Comunque mamma le faceva migliori, le faceva con sapore dell'alice che si sentiva. E l'alice dell'arancio? Arancio, poi non sai come le faceva, l'antica. Prendeva una vaccina di quelle mi dice baggio di manni. E lo faceva sculacciuli, lavorava a mano, infatti la sfottevo, diceva io sfogati, così non ci picchiano, io sfogati. Come le ha mandate sarà un paio di giorni fa, mi ha mandato le stasera, mia moglie ha fatto quelle, come si chiamano, schiacchile, così una che ho preso già, però niente, cosa, zucche o nulla, eliminiamo per un po' di mi stavo sentendo benissimo, no? Non vuole, sto mangiando molta frutta, mandarini. comprato ieri 3 kg, non c'è più, hai capito? Molta frutta, hai capito? Se no, se no... Mondarini! Qualche giorno esplodo, e così, no, adesso anche qui hanno organizzato il carnevale, hanno organizzato e penso che sia una bella sfidata e speriamo di sì, che almeno così i bambini si divertono. Sassari come tutte le parti faranno sicuramente qualche cosa. Marco riprendi, lanciato, no? Ho visto le forse, adesso con la scuola elettricità per cucina, hai capito già, bisogna che te la risolvi questa cosa, quando mai capita detto una cosa proprio quando lo parla e lui mi sembra che cosa l'altra, non mi fa proprio a voi. Ok, non sei uscito oggi già. Era Luca, siamo andati insieme, c'era Manuela che cantava. E se me l'avessi saputo, mi avrei scelto la macchina e ero uscito a farmi un giro con mia moglie, sarei venuto lì. Anche io, già Vittoria. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Purtroppo, mi capito molte volte, anche noioso la domenica, stavo guardando così un po' questa roba perché non ho fatto ieri sera a vedere anche la finale del FIFA, non ne ho guardato una, ma sapevo già che vinceva il FIFA e non mi sono sbagliato, già va subito, hai capito, mi ho memorizzato la biografia di questa ragazza è nata casualmente a Genova nell'82, perché sicuramente i genitori erano in figli, però di potenza, facendo una piccola fattoria, lì vive a Roma, già da un anno, hai capito. Però diciamo la canzone non lo si sa bene, poi se il signorino mi dà quelle cuffie che attaccano al tablet l'ascolterò, poi il resto già proprio non lo so. E i presentatori non mi sono piaciuti, mi prendi Luca. Yeah, non c'è un po' di gente, molte signorine carine, no? Già. Confermo. Io sono un vecchio ormai, qualche volta sto facendo battute, molte volte quello più pesante, però neanche quelle più già, perché poi la gente si prende sul serio, hai capito? Che io non, ma non che facevo tornato a giovane e lo stavo scappo, hai capito? Qualche volta con voglia così, se tu me l'avevi detto l'ho venuto lì a vedere con mia moglie, hai capito? Giusto per scordare la casa, ieri sera un po' mi, perché c'era questa cosa, sono uscito e come hai capito adesso a carnevale qui non esco perché andare cioè, in quei carri non mi piace respirare, però diciamo quando fanno queste manifestazioni carnevale anche mi per me è una cosa per bambini, già hai capito, però anche i grandi devono partecipare, sono i carri devono fare per contenere la cosa. E sarò per carnevale perché sono stati anche tanti anni dei soldi da un comune così. E cosa ti volevo dire? Quindi già dentro città mercato o proprio quella piazzetta cantato? La piazzetta. Ah, non città mercato. La piazzetta non città mercato. E ho capito, sì, ho capito, mi sono confuso, sì. Ok, no, ho saputo già, 5 minuti ero stato lì, ero così in casa, stavo qui a mia moglie, ci riusciamo a fare un giro, la macchina ci avevamo messo in garage ieri sera, ci stavo questa mattina, ma la macchina da tutto, siccome ho detto, non si sa mai con questa cosa, c'è qualche ubriaco, ho detto, sai come succede, e ce l'avevamo messo in garage, stamattina la stavo cercando, ho fatto solo in garage, e così. Quindi adesso vediamo se Marco è in cucina oppure si è entrato. Marco ci sei? È l'appetito gli ha fatto venire Luca. Come parla con le frittelle è sparito. E qui si mangia a mezzanotte a luna. Non so come fare di dirino, io da sera diciamo, ora abbiamo iniziato prima delle 8. Quello sta contando, ma di qua è un po', sta ascoltando qualcosa che dobbiamo mettere nel CD, hai capito, stavo ascoltando un po' questo aspetto che deve aggiungere. quindi poi anche il servizio al buio sono attratto. Mi prendi via. Un attimino che sto scaricando le foto. Sì, e c'era quel vigliato, no? Il vigliato già, c'era delle persone, c'erano forse delle macchine fotografiche, c'era la macchinetta, la classica, lui, ho comprato quella che sta in tasca. Ma delle macchine con degli obiettivi favolosi, quelle anche potevano. No, io non sono molto appassionato, stavo dicendo, ma cos'è? Però ho detto, una macchina così mi piacerebbe averla, anche perché da un due ragazzi, con la quale foto, classico di qui, e una bella macchina fotografica che, capito, con l'obiettivo proprio per catturi, non con fotografia, che non piccolina, sì, però non più tanto, capito? Queste erano molto belle, erano due treni. Sì, ce ne sono. È normale, no? Più spendi, più hai. Meno spendi, meno hai. È brava di Gianni, cavolo. Già, speriamo che non abbia fatto una foto a me, ti ammazzo. No, non te ne ho fatto. Beh, foto non l'hai fatto all'improvviso, ma... Mi incazzo veramente. No. Devo essere io, se vuoi. Io non so, chiedo a voi, sì, no, non ne faccio. Cioè, per esempio, tu se dico, se ti faccio una foto così e tu non vuoi, è normale. C'è gente che non vuole fare le foto così a improvviso. Infatti, mi aveva fatto una, uno fa, io non mi ricordo, anni fa, anni mille, ma mille tra me, nel 2008, 2009, mi sa, questo marito di mia nipote. Ha detto, ma belli di subito, più foto così, Ehi, ma là, no, me ne fare, no, ma belli di subito, dice, subito su Facebook li ha messo, hai capito? Lo fanno. Quello devono rompere le balle, però. In realtà anche a me non piace essere preso di sprovvista, perché poi vengono smorfie orrende, finché ti metti in posa è un conto. Non puoi mandare foto un po' come la futti. A me piace farle, ma non essere ripreso, tanto sono brutto, quindi vengo male in foto. E anche in verticale vengo male, di persona. Luca. Come il segnale, Luca? Ciù che ciù. Nove Tentria. Ah? Nove Tentria. Ah, già si vede la differenza già. Abbiamo piazzato la Mantova sopra. Palo corto, niente tirati. E se si vede la differenza dimmelo, se no non me lo dire. C'è sempre forte Marco, anche se tu usi un watt arrivi sempre forte qua. Arrivi picchiata. E allora cosa l'ho messo a fare se è uguale? Arrivo in picchiata, se io uso un watt, non è che cambia molto, fai un bel forte qua. Ehi, vabbè, è un bel affare che ho fatto. Affari sono affari, capito. Vabbè. Allora, io, e domani... casino. Adesso mi metto in moto, a prendere quel computer, vediamo un po' se riesco. Lo devo dare perché se no quello mi stressa, che vuole i soldi, padrone. Eia, vabbè. Com'è da te Gianni? Quale Gianni? Ma tu non ti ricordi com'ero con 4 watt, con l'antenna vecchia, no? Ma sta attaccandosi adesso, Marco. No, ho cambiato l'antenna. Vedi un po'. Ma sì, pensavo di averlo qua nel fondo, perché le 9 mi stai arrivando. Guarda, io invece ho con l'antenna nuova, come mi ascolti e come mi senti. Guarda, quanto coraggio ha attaccato. Guarda adesso come ti arrivo io, sia di là che ce ne sia chiaro. 9, tu arrivi proprio 9 spaccato. E che antenna ti sei messo? Tutti cambiano antenne stiamo. Aspetta, fai un secondo, proprio un minuto, state sedi, un secondo solo. Prova a parlare Marco. Ehi Claudio, ma non fa testo. mai sei così forte? Vai, sono a 60 watt. Mi stavo dicendo a Luca e a Gianni che avevo messo la mantova 1. Ok. No, mi sono spaventato perché sul canale 20, scusate se l'ho passato qua, sul canale 20 non c'è un filo di QRM. Ma che cosa è successo in questa radio? Passo qua e c'ho 4 di QRM. Sì, il 5 è un casino, Claudio. Comunque se devi fare la prova dello Smitter, guarda. Così sono con 4 watt come ero prima. Sì, questo è il tuo segnale, ok. Perdonatemi, Capri, a te il microfono, passo nuovamente sul 20. Del Galaxy Pluto, però cromato. Yeah. E aspetta che sto mangiando dall'acqua Emanuela. Sì, ho notato che la propagazione si sta alzando, perché prima con lo squelce, appena entrato, adesso si è alzato di più, adesso si è alzato ancora di più, quindi si sta salendo la propagazione. Sono modulazioni lontane, sono praticamente una specie di coro di segnali che formano un rumore di indefinito, là. Stasera si parlava di canali di chiamata, di scegliere un altro canale di chiamata, invece più semplicemente, siccome questo è il più frequentato anche da chi usa il camion eccetera, no? Autotrasportatori, forse è meglio lasciare questo come chiamata, poi appena quello ti risponde ci si sposta di canale, ecco, è meglio. Com'è con 4 watt il segnale, Gianni, vedi un po'? Con 4 siamo al livello di 6,5 di questa apparecchiatura. Oh, io riprendo, vi saluto, mi sto addormentando. Ciao ciao, a domani, buonanotte. Ciao Luca, buonanotte. La senti la propagazione? Qualcosa, qualcosa l'ha detto, hai capito, ma è purtroppo l'essere, hai capito che qualcosa dei fenomeni, anche sentiti molte volte, ma molte volte anche rompo quando si queste ore. Poi se vai sul 4... E non ce ne disturbi così, per dire, no? Va bene, Gianni, ci sa ancora doppio luna, per i saluti a Luca. Sì, ciao Luca, ci sentiamo, vai. Sto caricando con la foto. Ok, va? Mamma mia, questo pendolo, ti fa assustare, ti fa. E non è nemmeno dei più forti. Aspetta, a te. Ora, prova, 1, 2, 3, ok, bello, mi piace questo apparato perché ha il frequenzimetro old style tipo Pluto, e allargato di banda sarà ancora più bello, tutti indaffarati allora, ok, Gianni sta maneggiando foto, anche KP2 sta maneggiando foto, sì. Ehi, quella è pornografica. Cheerleaders. Oia, oia, ecco qua. Prova. Vediamo un po', ok. Aspetta, Gianni non c'era ieri, no? Mi è ritornato Gianni dopo 20 anni, il Viking 2. Vabbè. È un amico che entrava in 27, magari sta ascoltando. Gli do i saluti, ciao Armando. Gli avevo dato forse il 94 per usarlo, poi non sono più entrato, per scaduta la concessione. Il 94, 2014, sì, circa 20 anni, dai. Tutto quello che proprio è tardi che mai. No, io la RIN in realtà non gliel'ho chiesto perché non ci serviva più perché non modulavamo, però ho detto se lo trovi prova a portarlo che lo usiamo a spolverata e lo usiamo. Allora, in AM esce bene, prima di tutto riceve bene, in AM esce bene, in FM esce come saturo, quindi è da ritoccare. Lo porterò a Vittorio, gli dà una lineata e una scucciolata, così come si dice. E lo rivederà. Che poi è molto semplice come apparato, no? Ma quasi niente. Ora un squeeze, bande a 160 cali, 80 sopra e 40 sotto, poi manopola i canali e AMFM. Poi CBPA, il tastino CBPA che peraltro non funziona e non me ne frega. Il frontale è piccolo piccolo, però è lungo, di profondità è lungo. Il microfono non è originale, ma è un connex che pare che vada, però sento un ronzio, un'alternata in ricezione, un'alternata leggera, quindi forse c'è qualche massa di troppo o troppo poco in quell'apparato, in quel microfono. L'avevamo preso da Adriano, che vendeva gli AM International, l'avevamo preso prima del Multimode 3, perché 160 canali non bastavano, allora poi ne abbiamo pigliati 200. Ah, qualche cosa. Ma ti ricordi anche a cosa servivano i canali? A fuggire dalle portanti, perché finché Paoletta aveva 40 canali era, va bene, poi ci metteva la portante, allora dovevamo andare oltre i 40 o sotto i 40. Poi si è preso il Concorde 120 che aveva i 120 canali tutti sopra, no? Allora noi scappavamo sui canali sotto, poi si era preso un 200 canali e non potevi più scappare più da nessuna parte. Oh, avanti. Allora guarda a vedere che ho fatto tutti gli ultimi ritocchi, dimmi se la modulazione è buona e se sto andando in positivo, se è stabile il segnale, quanto è, com'è, chi sei, dove sei, se per sei. Claudio, io non sto usando il keyboard, sto usando però baracchino della Mutua, quindi non vedo segnali qua non sale più di tanto, se vuoi attacco l'altro. Vabbè, c'è, come la senti la modulazione? Buona, ma prima per caso quando hai fatto quel passaggio da notte al giorno era più forte ancora o sbaglio? Sì, era più forte, ma stavo usando un altro tipo di microfono, adesso sto usando il MC60, ma sembra che sia forte, abbastanza forte anche così, o no? Sì, abbastanza sì. Vediamo cosa dice Gianni Dopiru. Sì, va bene, va bene. Poi io quando piglio il microfono qua sento un fuoco. Cos'è? A che modo sentite? Oh, siamo al sentito. Non ho sentito il rumore, fa bom. Io non sento a te, invece è tutto brisacciato, tutto fuori frequenza. Non è alternata che la ventolina che ce l'ha aperta alla radio. Non la ventolina, bene. Va bene. Come mi senti Gianni Capello di radio? Va bene? Radio è perfetta, è ultima, tra ultima, proprio, sembra 680, sembra. No, questo è 140 di Massimiliano, non è 680. Va bene, allora adesso intanto inizio a chiudere qualcosa qua, e poi vi richiamo. Ok? Datemi due secondi, e poi vi richiamo nuovamente. Aspetta, qua si sta usando la propagazione, lasciatemi un attimo di bianco, ecco, no, ho cambiato, non ho il Kenwood, sto usando quell'altro apparato perché quello non ha squelch, mi dà fastidio, invece con la squelch non sento nulla sotto. Allora Gianni, ho recuperato un Viking 2, di metà anni 80. Dopo 20 anni l'ho recuperato, perché lui non lo usava e io ero rientrato e gliel'ho chiesto. Mamma mia, il subendo, lo sentite? Di anarchia, perché l'amministratrice è scomparsa, no? Che abita nel palazzo, ma è successo che è morto il marito e lei non si fa né più vedere né più sentire, quindi non sappiamo niente, non stiamo pagando, perché a parte che avevamo anticipato 250 euro per un lavoro urgente mai fatto, quindi i soldi del condominio li sta scalando da quelli, ecco, se no se li teneva e il lavoro non era mai fatto, capito? Poi vediamo come andrà a finire. Allora, tu lo sai dove era Sassari, il cinema Ariston in Viale Trento? Ecco, due traverse più su, c'è Viale Mameli e poi c'è Via Nizza. Ma Sassari non vieni spesso, no? Ogni giorno quasi. Ah, ma tu non eri in un bar in via Savoia poco tempo fa? Bar in via Savoia? Penso che tu di no, perché? No, perché ero andato a prendere un caffè e c'era un gruppo di persone, sicuramente era di Avanturi o CTB, che stavano parlando del Catalina, io ci avevo il Catalina, io bevendo il caffè non li conoscevo io, come ho sentito così ho pensato a te, perché l'avevi nominato mi pare più volte, e non sapevo chi erano, uno vabbè il ragazzo che lavorava lì a fianco, e gli altri non li conosco, credo era di Avanturi. Thank you. stavo riparando la stazione come la prima. La stai rimettendo? Non se ne può fare a meno. No, rimettendo, no, ma la sto guardando in foto sul computer. Ah! Io vedi le foto che ho fatto oggi, alcune delle foto. qualcuno vuole entrare avanti. No, un attimino che faccio delle prove sul 6, riprendete qua. È fuggito, se è fuggito perché stava parlando troppo gli altri. Però non lo so, non ho capito, ha fatto un break da 3 ore, e tu continuavi a parlare e si è scappato. Sta arrivando bassissimo oggi. Comunque non mi mettere il ventola, che devono scaldare le valvole per andare. Il 2001 è trasistorizzato. Non la smetti sopra modulare, Marco. Però su 6. E perché Gianni sta arrivando basso? Cos'è che hai attaccato, Marco? Io? Sì. 60. 60 cosa? Watt. Ehia, ahia. Va bene, in SSB è più spostato questo coso. Non proprio tarato, allucinante. L'FM. Che non è tarato in fabbrica questo molto. Gianni Capri 2. Guarda un attimino, che ti sta arrivando. Buonasera, ben sentito il grosso. Che ti sta arrivando meglio, io o Marco? 9.5, buonasera, 9.5, in che senso? Praticamente è tutta mangiata. Ma cosa vuoi, è tutta satura. Infatti, no, con quale metro? Ma tu sei troppo saturo. Sembri un FM, amico. Guarda adesso. Limpido. Io lo so, quando tiri cavalli qua succede un casino, perché non è fatta per andare in quella, su quella potenza, su quella frequenza. Se andiamo in banda laterale è diverso. Ma non è a MOSFET? Lote 50, cosa va in MOSFET? No, che apparato è? Lote 50. Il 50, non te... premi prima, poi parli. Grazie per darmi queste nozioni di trasmissione. 8 e 50. Ah, no, credo stessi usando qualche apparato di quelli digitali nuovi. Marco. Oh. Allora, questo è un MB7. MB7 da ZG con la 140. Molti differenza di modulazione. Molti bassi. Molti bassi. Quindi è meglio metterla così, più acuti ci sono. No, più forte mi sembra, ma quattro acuti. Chi eri, c'è Antonio o Gianni? Antonio Drode. Sì, classi cupo. Sono un cupo, non c'è qualche tipo attaccato, no? Molti bassi, aspetta un attimo. No, Antonio, non per... però io sentivo 40, tipo 50, ecco, sentivo 8.50. Ora, mamma mia, questo scalda, perché scalda così questa cosa? Che cos'è? Con soli 4 watt, però scalda un bel, scalda subito. Stazionaria non ce n'è perché ho accordato. Sì, tutto innescato, claro. Tutto innescato. Vabbè, innescato. Adesso non più. Guarda, non l'avevo attaccato, sono andato vicino a minchia. Cosa hai detto, Antonio? No, adesso stai andando bene, ma prima c'era una specie di innesco, una specie di qui sotto. Ma tu, abbiamo parlato insieme io e Claudio. No, con me tu non puoi parlare con Antonio, perché come che non esisti. Ho parlato assieme a Antonio, sentivo Antonio sotto, non capivo una minchia. Sì, c'è il microfono attaccato, guarda cosa succede. Tira l'alternata, tira dentro il RF. Ma dentro, colazione sua, quindi la solita. Sì, un po' più, cioè è un po' meno cupa di come era prima, però è un po' più cupa di come di solito, ma ti ripeto, trascurabile. E da te, Marco? Sì, un po' più cupa del solito, ma che microfono è? C60, che microfono è? C60 o 140? Aspetta un attimino, fai un passaggio importante, muta. C'è in lontananza, proprio lontano lontano si sente un rumore di alternata, ma proprio piccolo piccolo piccolo, forse come stai dicendo tu, è vicino al valvolare. No, è la ventola, è la ventola staccata dalla linea valvolare. Non c'è più, vabbè, qua c'è sia anche perché è aperto, è a ventaglio ancora, non ho terminato le trattature, non è roba mia, ci hanno messo le mani dentro, non andava tutto negativo, tutto un casino. Ascolta, una cosa ti volevo chiedere, è presente quando nell'850 appare la scritta Tune, cosa significa? Ti sta guardando la radio. Si appare la scritta Tune, sta guardando. Sì, ma a volte rimane acceso, cioè al pari di come se fosse in AM, FM, rimane accesa la scritta Tune. E rimane Tune. Sinistra, se no al centro deve accettare al centro, non cambia niente. Noce è disinserito perché agisce anche nella meccanismo della modulazione. Libero, non è, ma devo lasciare libero, perché tanto agiscono solo i filtri a 6 kg e basta. Mentre in banda laterale puoi stringere e allargare lì con il lo shift noce praticamente. E ti accorgi che quando parlano la modulazione rimane o più stretta o più larga. Secondo del corrispondente che hai o a fianco o centrato o spostato, insomma, quello lo vedi tu una volta che tu trasmetti in banda laterale. Ascolta, il voice, scusando, poi ripasso la parola delle cose in mic a Gianni, il voice a cosa serve? Guarda, la scheda fonema, se tu pigi e non canta la radio, non ti dà la frequenza in inglese, vuol dire scheda fonema non ne ha. Cioè, lo devi tenere schiacciato o basta schiacciarlo? No, basta schiacciarlo e deve cantare lì. Ti devi dire 2 7 0 1 6 0 0 1 5 0 0 5, allora siamo 0 15, 5 0 0. Se non te lo dice non c'è scheda fonema. Allora non c'è scheda fonema, non serve un tubo, serve per i cicchi questo. È una scheda che avevano messo tutti in alla nostra, che hanno è meglio avere finito nelle radio perché ti avete cagato così da 7000 ne ha poco di distanzate che tu non serve assolutamente a niente. Ho capito. Ascolta, ma questa qua c'è una radio anche che c'è sotto menu? Sì, c'è un mini sotto menu, ma poca roba, serve solo per utilizzare praticamente per inserire i filtri in automatico, per il resto non c'è altro. Una specie di cosa di analizzatore di spettro, non ce l'aveva, non era questo, ce l'aveva, era il 706, no? Sì, no, quello non ce l'ha, non c'è niente, i filtri grafici ti devo al 7004, e altre radio digitali, quello è semidigitale, altro non è un digitale vero e proprio, non c'è un digitale. Riprendi Gianni, scusando per l'attesa. No, dai, tutto se QX, dai. Vi saluto tutti, arrivo anche QX, ascolto, dai. Ciao a tutti, bravo. Ciao, lo più brutto, ma che riesci da domanda? Tale. Tale. Il tuo principale me l'ha detto. Bene, il mio principale, non lo conosci tu. Come no, faccio non lo conosco. Ah, Gianni. Allora. È il tuo principale, dai, che appassi. Sì, vabbè, quello che c'è, cos'è il capo magazzino, il capo negozio, cos'è? Sì, il capo negozio, non più parlo. No, l'altro giorno stavo io in ascolto e ho detto, no, intanto ci vediamo che per la prossima settimana sono i figli, no, i tuoi scippo. Io, sì. Ci stavi cascando, eh? Chi è Gianni? Quello che ho avuto io? Sì. Stonzo. Maledetto. La collaborazione. A te l'ha detto da andare in ferie, Marco? A me non mi ha detto niente. Boh, io ho sentito parlare con qualcuno, Gianni, non so cosa l'ha chiesto, ma te, vabbè, dai, intanto per la prossima settimana sono libero che vado in ferie, quindi domani per la prossima settimana per quello che ho detto. Insomma, non so niente, ho un ascolto, ho sentito così. Vabbè, anch'io domani sono a recupero, non c'ero andato a lavorare, quindi mi sistemo alcune cosette, e così. Uie, sono libero. Un po' di dare un altro tocco a questo 140 che era tutto bloccato, adesso finalmente risponde, comunque va bene. Come mai nuovo ma toccato? Sì, ti dico nuovo, questa è una delle poche che ho visto, è nuova anche all'interno, anche all'interno, quando me l'ha portato praticamente succedeva che andavo a pigiare la portante, per esempio 10 watt, non mi dava 10 watt, me ne dava di più perché 10 watt, e quindi lì, già da lì il bilanciamento della potenza è stato toccato il trimmer. Poi vabbè, poi ho fatto altre prove, la stessa cosa, tutto negativo, tutto l'ho aperto, l'ho messo a ventaglio. I trimmer, che sono quelli appunto delle regolazioni dove c'è tutto scritto, hanno tutti un puntino nero, quindi qualcuno è andato a metterci le mani e poi ce li ha segnati, senza avere però un riferimento, quindi uscì a brocco, capito? Senza avere un riferimento vero e proprio come c'ho io, c'ho la tabella sia di questo, sia 80, 440, eccetera. Dove vado a toccare vuole 15 in posizione, forse, allora devo mettere lì. Questi hanno tutti messi a capo il cane. Quindi adesso ho fatto tutte le tarature come devono essere fatte nei vari trimmer di riferimento e la radio è tornata a normalità. Poi ancora c'è qualche ritocchino che non mi convince, ma in linea di massima ci siamo, come la radio, prima non c'era la radio, adesso sta spingendo, insomma, diciamo, non dico, vediamo com'è, perché mi sono spostato di... Siamo sul canale 15, eccolo qua. Beh, c'è qualche filtro inserito perché la radio è abbastanza alta, va bene la grande. Aspetta che metto il tenutore, eccolo qua, sì. Va bene, come radio va benissimo, sono soddisfattissimo, non ci sono problemi. Altre non andava bene, adesso già va bene. Vabbè, ma te lo sta dicendo anche Marco, non solo io, adesso sta andando bene, prima era un po' castigato, evidentemente era fredda, non lo so. No, ci avevo aperto, ce l'avevo aperta, e quindi magari non aveva bene la chiusura di massa, eccetera, quindi non era... Perfetto, adesso già va bene. Capri 2, ci sei ancora? Avanti, ti rimetto il cambio. Cazzo sto uscendo? Io non ti capisco Gianni, sei fuori frequenza. Ma Anto, tu lo capisci? Marco, tu lo capisci a Gianni? Capisci che cosa? Io a Gianni lo sento fuori frequenza. Oh, io ho capito. Vieni avanti Gianni. Io lo sento. Io lo sento male. Perfetto. Gianni, fai un passaggio lungo, almeno 10 secondi. È un pochino. Vabbè, ho fatto una prova veloce, facendo l'escursione del Coarts. Avanti, mi sparisci prima. Abbastanza prima, invece andando indietro mi sparisci molto più in là. Sì, per me sì. Ma io di radio ne ho quattro, quindi di HF tutto quattro arrivi così, anche su C80, su 430, non solo su questo. Perché Antonio è perfetto, Marco è perfetto, non so cosa dirti, cosa vuoi dire. Non c'entra niente a direttiva, è che ti ascolto fuori frequenza io. Sembra che sei in FM, boh. Quante volte stai usando? Parlate un bel po'. Io ti ascolto molto amplificato, sembri quasi fuori frequenza, non lo so, vabbè. Sarà colpa mia, non so cosa dirti, poi ti ascolto male. Avanti Marco. Marco. È troppo amplificato, sì, per i miei gusti, prova a abbassare un po'. Ma la potenza non la puoi sollevare un pochino. Non so, io ti ascolto tutto messo male. Avanti Marco. Hola, 1, 2, 3, prova, 40, 40. sapore di birra. Sì, sì, invece di amore. Sì, non l'avevo passata, hai capito? Come si chiama? Non lo so dirlo solo perché qui aveva una bolla di salata, altrimenti poco. Io signore vi saluto che domani tira a volo e servizio qui. Mi devo alzare alla solita ora questo presto a prepararmi e tutto quanto. Vi saluto, ciao Claudio, ciao Grosse, ciao Marco Conto, ciao Gianni Doppio 1 e ciao a tutti gli amici che sono in ascolto su questa frequenza che ho fatto il 2010K. Riprendi ancora su Claudio questa la gira, ascolto il finale e non si chiudo. Ciao ciao. Ok, ciao Taxi. Ci sentiamo domani, ciao, buonanotte alle prossime, avanti Antonio. Ciao Gianni, 244, 73, buon lavoro per il buon tabacco per domani e ci sentiamo domani se coincide, domani pomeriggio. Ciao ciao, avanti Marco Fondo. Sì, avevo staccato l'antenna, allora lui mi arrivava con lo scanner in una certa modalità, mi arriva 2701. Allora, 01417 mi pare, è un po' indietro, copiato? 2701417, vabbè, ma sto uscendo, no. Ma cosa si è attaccato? Io, ehi. Prova a attaccare. Allora, 60 watt o poco giù di lì, 4 watt, tondi. Allora, deve rimanere a 4 watt, metti la portante qua, un minuto. Un minuto d'orologio? No. Antonio? Sì. Ecco. Ok. E cosa stai tarando? Mister, una voglia e l'altra. Come faccio io per i baracchini? Praticamente regolo solo il 9 lo faccio uguale al K. Naturalmente poi questi baracchini falsano sia i segnali alti che quelli bassi, però il 9 è giusto. Sì, sì, va bene, alla grande. Chi è che invece mi può dire se di quanto sono spostato in banda laterale, per esempio? USB? Sì. Molto di più. No, non è niente, non faccio niente. potenza 10 watt, adesso sto usando i watt dell'apparato, niente microfoni amplificati, solo mic di serie normale. No, va bene, va bene. No, non ci sono problemi. Ok, AM. Ecco qua. Va bene, crevo peggio. No, no, va bene. Alla grande, alla grande. Aspetta che abbasso la potenza. Ok, lasciamo stare così, se no mettiamo a 30 watt. Eccola qua, 30 watt, già va bene. Ok. No, perché alle altre volte si limitano a dirmi si è spostato e non c'entrano col clarifier, capito? Dicono si è spostato, si limitano a quello e basta. Quindi anche facendo DX, lo sai, chiamando a 27555, alcuni ti dicono non sei centrato, tutto lì e basta. E allora cosa serve il clarifier? Il RIT, il CO, il FINA, cosa serve? Ma infatti, è proprio così, bisogna giocare con quelle cose, sono un casino pure. No, anche perché quando chiamano me la prima cosa che gli dico è parla che ti centro, ecco, non hanno voglia di muovere la manina a certi, capito? Vabbè. Voglio farlo bene, se no che prove sono, non sono più sufficienti, capito? Vabbè, anche per... è scioccante quando sai più persone che hanno baracchini, che ognuno... cioè, centrati i baracchini, non ne trovi uno centrato, capite? Ma ad alterare il gruppo comincia a diventare più scioccante. Già lo so, è proprio così. Grande rottura di palle. Un tipo ha detto, l'ho sentito in frequenza, ha detto io sono stufo di centrare gente che usa il baracchino. E allora cosa ci fai a fare DX? E non hanno tutti mica apparati amatoriali, no? Di centrare gente che usa il baracchino. Non so cosa voleva dire. Sì, uno che fa DX è stanco di centrare quelli che usano baracchini. Poi per dire devi essere ben centrato con amatoriali, perché sennò non ho voglia di chiarificare, capito? Bella personcina, per esempio di... ma vabbè. Vabbè, non è che ha tutti i torti, nel senso che già uno che è un baracchino non dovrebbe fare per legge DX. Quindi non ha tutti i torti, però lui se te l'ha detto a 27.500 non so che cosa, era un pirata, perché anche lui non doveva stare lì se era un radioamatore. Sì, no, non era diretto a me, stava parlando con un altro tipo e ha detto che era stufo di centrare gente che aveva il baracchino. E quindi loro vogliono fare i pirati su 27.555 tutti con gli apparati amatoriali, capito? Così non devono centrare nulla. Vabbè, non so che dire, posso rifare, tu poi c'è sempre alla tua voglia di fare, poi loro già sono tutti i garimandroni, non è che hanno molto da, come si dice, protetto, ecco qua, lavorando. Non credo che sia Sassari, era un continente. Sì, il continente sono allora, dove pensi che sia. Sono il continente, vabbè. Gappa gappa, va bene, dai, io mi faccio altri due controlli, non mi sposto su 20, vi saluto. Ci sentiamo domani. Alla prossima. voi. Ciao Antonio, ciao a te Marco, e chiunque fosse in ascolto qua sul 5. Mi faccio qualche altra regolazione e poi me ne vado a nanna. È già mezzanotte. Ciao a tutti. Ciao, Fra, buonanotte, ci sentiamo alle prossime. 7-3 e arrivo presto. Vedo la foto che si è messo Gianni per Roma su Facebook. Non vuole distare, lascia vedere. Vabbè, ciao ciao. Ciao Claudio, alle prossime. Anto, ma perché tu non hai avuto mai la passione di provare a fare un DX? Siamo a baracchino, diventa una cosa veramente riduttiva, fare due chiacchiere nel locale. Ogni tanto, chi non ha fatto mai DX sui canali alti? Ascolta, il problema è che in ogni radio, in ogni CB, c'è lo spirito, fra virgolette, del radioamatore. Io non ci credo a quelli che dicono, io a me non me ne frega niente. È un po' come la storia della volpe di Luva, non te ne frega niente perché non ci sei arrivata ad averlo. Perché è normale che uno spirito libero, come può essere quello che ama utilizzare la radio, per forza di cose non può rimanere, non deve rimanere all'interno di quello che è l'ambito cittadino, quello che la citizen band ti dà. Quindi per forza di cose è normale che uno si spinge a cercare di fare di meglio e di più. Perché dico, nel momento in cui cerchiamo di aumentare la potenza, di uscire meglio, ma per cosa lo facciamo? Per raggiungere distanze sempre superiori. Quindi è normale che uno appena può fa queste cose. Sono normali tutta una serie di cose. Qua adesso non c'entra niente il discorso che stiamo facendo, ma mi allaccio ad altri discorsi di protesta che ho fatto e di bacchettatura che ho fatto da terze persone. E cioè, nel momento in cui le fai queste cose, e le abbiamo fatte tutti, ma non te ne vantare. Cioè tutto quello che hai fatto, l'ho fatto, l'hanno fatto quasi tutti, però dico, è meglio non vantarsene, perché è lì che ti freghi. Poi, vabbè, io mi ricordo tanti anni fa che ci aveva specificato sulla concessione, pure da qualche parte l'ho letto io negli anni 80. Diceva, sono vietate le comunicazioni a distanza di X, una cosa del genere. Però non specificava se era vietato farle all'interno dell'Italia o solo per l'estero. Perché d'altronde anche in AM noi sentivamo Taranto, sentivamo di tutto in AM, cioè noi in quel serio locale entrava, che so, il Tarantino a salutarci, a parlare, allora anche quello è considerato di ex sanzionabile o... Assolutamente sì, puoi fare solamente una comunicazione che si chiama banda cittadina per quel motivo, per poter comunicare solamente all'interno della città. No, breve distanza, non sono specificate le distanze a tu, allora in teoria non possiamo parlare con Prostores, con Alghero, e che senso avrebbe allora la CB? Allora, ti sto dicendo, breve distanza nell'ambito cittadino, assolutamente, non potresti neanche parlare con Cagliari. E anche volendo Cagliari, in diretta no, lo skip sarebbe troppo corto, è un casino, ma... Nessuno è stato, no, qualcuno già era stato beccato a fare DX, ma DX Fortini con VAT, ma poi alla fine non è successo niente di grave. Sì, ma c'era uno, adesso non mi ricordo, che aveva fatto, non era una leggenda metropolitana, di questo qua che aveva fatto questo DX, aveva dato il suo indirizzo, ma ora gli era arrivata la cartolina di sanzione da Roma, capito? Ah boh, ma al centro ascolto. Esatto, adesso magari non succede più, ma perché rischiare, qualunque cosa, boh, non lo so. Grave o disturbante, no? Ma è un po' cambiata la situazione. E poi in altri campi ho fatto casini ben peggiori e nulla è successo, molto peggiori. Il problema non è fare le cose, il problema è vantarsi delle cose in situazioni che evidentemente in cui serve meglio evitare, capito? Aspetta, mi sto ricordando. ricordando, sta venendo in mente. L'avevi visto tu, I Miserabili? Dove c'era quel tipo tormentato da quel commissario che era un fanatico della legge, e mi ricordo una frase bella che mi è piaciuta, no? Gli ha detto questo commissario a quel tipo braccato, dice: lei non capisce l'importanza della legge. Mi sembri lui, Anto. Non è quello, è che in una condizione di anarchia totale, poi alla fine davvero le cose non hanno più il loro gusto, ma a prescindere da quello, il fuoribanda per una questione di armoniche possono creare davvero seri problemi, soprattutto se gestiti con potenze di una certa rilevanza, perché già sulla prima armonica ti troveresti ad avere sì vero una potenza ridotta, però magari vai a sforare in banda aeronautica o comunque a creare problemi davvero seri. Quindi se ti dicono che non ci puoi andare, un motivo ci deve essere. Ehi, perdonami, non ho copiato la prima parte del post, l'inizio, perché il pendolo ti ha coperto. Dicendo che molto spesso, se non ti rendi conto, i fuoribanda sono vietati perché in prima armonica, anche se c'hai una potenza molto limitata, comunque puoi andare a creare problemi magari in bande particolari tipo quella aeronautica. Questo, cioè, potrebbe creare problemi davvero seri, quindi perché fare queste cagate poi, quando poi è giusto il gusto del proibito, anche perché non c'è niente di diverso. Beh, magari qualche opzione in più, per esempio quelli che vanno in 45 e mi puzzano lontano meglio i radiatori, anche perché i più corretti, come parlano, mi sembrano proprio radiatori, ma... E loro, rispetto al CB, no, che la propagazione è limitata, e lì, allora perché certi radioattori, perché quelli sono, dai 40 metri se ne passano in 45, qual è quello che ci guadagnano alla fine? Il rischio di perdersi la patente. Ma sì, in effetti, ma il senso è, magari un CB ambisce più alla 45 metri come era una volta, ti ricordi i baracchini col trasverso inserito. Il CB ci guadagna perché hai una propagazione, cioè tu parli del continente come stiamo parlando noi, no? In condizioni normali già. Il CB potrebbe ambire di più, ma un radiatore perché passare 40-45? Lui proprio ai fini della portata non ci guadagna niente. Sì, infatti, è giusto il uso del proibito, capito? Sono le cagate che spingono l'essere umano a mettersi nei casini, anche perché, ripeto, rifarsi i documenti, comunque, credo che poi una volta che te la ritirino la patente ti giochi col piscio. Quindi, boh, non so davvero perché uno rischi tanto, per cui se vuoi vedere il guadagno è davvero mediocre, quindi boh, non so cosa dire. Anche perché, ti ripeto, non l'ho mai fatto e mai lo farò. Mai dire mai. No, te lo dico, non ci sono problemi. Mai lo farò, perché non è mia intenzione proprio. Ci ho messo, non dico una vita, però ho studiato, mi sono rotto la balla per avere questa patente e non ho nessuna intenzione di perderla. Va bene, caro, mi sa che è arrivata la notte e mi sa che vado in QRT anch'io. Cappa, peraltro vedo che mezzanotte è passata, quindi è giunta l'ora di cena. Anch'io vado adesso. Ciao Anto, buonanotte.